reportage. Bye bye Europa, la Gran Bretagna lascia l'Unione, di Sergio Nava. The total number of votes cast in favour of Remain was 16,141,241. The total number of votes cast in favour of Leave was 17,410,742. All'ora di colazione, come promesso, arriva l'annuncio ufficiale. Ed è un annuncio shock. Con quasi 17 milioni e mezzo di voti e quasi il 52% dei consensi, il fronte del Leave, favorevole alla Brexit, surclassa chiaramente quello del Remain, che rimane staccato di oltre 1.200.000 consensi, poco sopra il 48%. A parte Londra, la Scozia, l'Irlanda del Nord e diverse grandi città, è l'Inghilterra rurale del centro-nord, insieme a sorpresa al Galles, a determinare una vittoria netta, che lascia il paese spaccato in due e apre una crisi senza precedenti nell'Unione Europea. Un terremoto politico destinato ad avere forti scosse di assestamento nei mesi e forse anni a venire. Perché sì, la Gran Bretagna ha scelto di uscire dall'Unione Europea. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. Di prima mattina è lo stesso Premier David Cameron ad alzare bandiera bianca, visibilmente scosso, accetta il responso popolare e annuncia che non sarà lui a condurre i negoziati del divorzio, sarà il suo successore a Downing Street. Lui se ne andrà in autunno dopo aver gestito la fase più difficile, quella della transizione politica ed economica. Per lui una batosta tremenda, Cameron aveva puntato tutto sul restare in Europa. E ripercorriamo ora le 24 ore che hanno terremotato l'Europa e la Gran Bretagna. Partiamo dalla sera del 23 giugno, quando le urne si sono appena chiuse. Così Giorgia Scaturro ci racconta l'attesa in uno dei tanti pub di Londra, dove si sono riuniti gruppi di sostenitori dei fronti opposti. Le urne sono chiuse e sono qui al Lexington Pub, dove è appena cominciata la serata a tema Should I Stay or Should I Go? Ma con tutto rispetto per i Clash, stasera è tutta un'altra musica, tra maxi schermi e pinte di birre, con cui si annaffia la snervante attesa per la decisione più importante di una generazione che da domani sarà irreversibile. Qui con noi alcuni giovani attivisti con i resti di una campagna che hanno sostenuto fino a poco fa. Hanno cartoline di Parigi, Berlino e Varsavia con cui hanno cercato di contribuire a questo aggressivo referendum. What are these postcards about? Cosa sono queste cartoline? We created them to bring a positive message to the debate and to talk about the relationship between our country and the countries on the postcards. Le abbiamo create per portare un messaggio positivo a questa campagna, parlando del nostro legame con questi paesi. Come ti senti stasera? How are you feeling tonight? Very anxious. I think that the bad weather might have affected the vote for us. Sono molto ansioso. Penso che il cattivo tempo possa aver avuto un effetto sul risultato per restare. Chi pensi che vinca? Who do you think will win? I think the Remain will just pull it off, but I can't say for sure. Penso che Remain ce la possa giusto fare, ma non sono sicuro. Lo chiediamo anche a Porsche, londinese, che parla italiano. Per chi hai votato? Ho votato Remain perché ho cresciuto a Londra e mi piace che c'è una mescolanza di persone e che ci sono tanti stranieri. E se vince Brexit? Sarò molto triste. Perché? Perché non ci sarà questa possibilità di muovere in Europa e ci sarà una linea, non lo so immaginare o vera, tra le persone. Il referendum non è uno strumento molto usato in Gran Bretagna. Come vi siete sentiti? Per noi è stato difficile, però adesso siamo contenti che è finito e aspettiamo i risultati. Questa l'abbiamo ascoltata, l'attesa. Nel corso della notte, dopo un primissimo iniziale vantaggio del fronte del restare in Europa, confortato dai sondaggi a urne chiuse, che lo accreditavano di un 52%, bastano 2 ore e mezza per demolire ogni ottimismo. Il risultato della circoscrizione di Sunderland, profondo nord-est operaio inglese e profondamente, scusate il gioco di parole, laburista, cambia il corso della nottata. E per sempre. Sunderland si schiera massicciamente per la Brexit. Da lì è una valanga che non si fermerà fino all'ora di colazione, con l'annuncio ufficiale a sigillare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. La prossima tappa a questo punto è Bruxelles per un avvio di settimana che si preannuncia drammatico in un Consiglio europeo previsto martedì e mercoledì di crisi. Abbiamo chiesto a Vincenzo Scarpetta, analista politico di Open Europe, cosa ci si può attendere dalla riunione dei 27 più 1, come d'ora in poi dovremo definire l'Unione Europea. Sarà un vertice naturalmente speciale perché siamo di fronte ad un evento senza precedenti. Ci sono state già delle dichiarazioni, siamo più o meno sugli standard diplomatici, nel senso che c'è rammarico nelle altre capitali europee per la decisione, ma c'è anche, naturalmente non potrebbe essere altrimenti, la volontà di rispettare quella che è non solo una scelta democratica del popolo britannico, ma che è stata fatta con un'affluenza alle urne di oltre il 70%, che è la più alta credo dal 1992, quindi è un mandato chiaro e inequivocabile che in quanto tale va rispettato. L'Europa, i colleghi di David Cameron, gli altri capi di Stato e di Governo non hanno in realtà la possibilità di costringere Cameron ad attivare immediatamente questo meccanismo di uscita. Si comincerà a parlare, io credo che ci saranno anche le prime riunioni a 27 senza la Gran Bretagna per cominciare a discutere una strategia, perché poi prima, tardi o presto, diciamo, il momento di questa trattativa e dell'attivazione di questo articolo 50 del trattato arriverà e si dovrà negoziare, si dovrà capire che tipo di rapporti economici e commerciali si decide o meno di mantenere in piedi tra il Regno Unito e il resto dell'Europa. Si apre un buco anche nel calendario delle presidenze a rotazione, perché la Gran Bretagna sarebbe dovuta essere presidente di turno nella seconda parte del 2017, la vediamo a questo punto abbastanza difficile. Su questo non sono del tutto sicuro, perché comunque va tenuto presente che durante il negoziato il paese che dichiara di voler uscire rimane comunque a tutti gli effetti uno Stato membro dell'Unione Europea, quindi vedremo più avanti, però in principio non sì, sarebbe naturalmente un po' strano, però non ci sono impedimenti legali, non c'è nulla al momento che stabilisca che la Gran Bretagna non possa coprire questi sei mesi di presidenza a rotazione. La Francia e soprattutto la Germania sono state molto chiare, hanno detto se uscite, uscite, non ci sono margini negoziali, uscite anche al mercato unico, siete a tutti gli effetti un paese terzo, in quanto tale sarete trattati. Erano minacce, tra virgolette, pre-referendarie, e ora possiamo pensare a un addolcimento delle posizioni, oppure per dare l'esempio agli altri, Berlino e Parigi daranno seguito a questa minaccia? Eravamo durante la campagna elettorale per il referendum adesso è finita, e naturalmente ci sarà, io credo, in alcune capitali, penso a Parigi più che a Berlino, la tentazione di dare l'esempio, di dare una lezione a Londra per dimostrare agli altri che se si esce dall'Unione Europea poi si raggiunge un accordo che non arriva a garantire gli stessi vantaggi che si ottengono dall'appartenenza all'Unione Europea. Naturalmente questa reazione emotiva, soprattutto all'inizio, perché è anche naturale da parte delle altre capitali dire abbiamo fatto uno sforzo sincero per arrivare ad un accordo a febbraio, nonostante questo David Cameron, il governo britannico, non è stato capace di vincere il referendum. Però visto che il negoziato poi si protrae per almeno due anni, è possibile che col passare dei mesi il pragmatismo e il senso comune abbiano la meglio, ed è sinceramente quello che io penso. Well, that was my proposal actually. I have said that I don't think Article 50 is the right way to go. E quella che state ascoltando invece è la voce di Bill Cash, storico deputato conservatore antieuropeista, che condivide la scelta di David Cameron di non attivare immediatamente l'articolo 50 del trattato di Lisbona per un'uscita del paese dall'Unione, l'inizio di una complessa partita a scacchi, insomma. Ma le conseguenze, come i mercati ci hanno insegnato ieri, non sono solamente politiche, sono anche economiche e finanziarie. Sul breve periodo è già stato un bagno di sangue. E sul medio-lungo periodo, cosa attendersi dopo la Brexit? Lorenzo Codogno, visiting professor alla London School of Economics, di cui anche macro advisor. Penso che tutti i leader europei, banche centrali, eccetera, dovranno fare una grande riflessione. Bisognerà cercare di capire cosa si può fare per limitare i danni economici che certamente ci sono, ma non sono inevitabili nel medio-lungo periodo, e quindi uscire con delle iniziative che preservino l'apertura degli scambi, che preservino l'apertura in termini di investimenti diretti nel Regno Unito e nel resto dell'Europa, e quindi si dia un segnale rassicurante agli operatori economici e agli operatori finanziari. Questo dipende da questa reazione politica e di policy, dipenderà l'impatto nel medio futuro, nel medio periodo, di questa decisione sul referendum inglese. Non possiamo chiudere senza guardare ai connazionali che vivono in Gran Bretagna. I trattati europei garantiscono attualmente la libertà di circolazione e stabilimento in un altro paese membro per i cittadini comunitari. E ora? Il premier uscente Cameron ha garantito ieri che nel periodo transitorio gli europei residenti oltremanica e quelli che vi circolano temporaneamente manterranno gli stessi diritti, ma non ha potuto offrire garanzie su cosa accadrà dal momento formale del divorzio, dell'uscita, insomma. La preoccupazione è alta, anche se per gli italiani già residenti non dovrebbe, si spera, cambiare molto, come ci spiega Filippo Baglini, direttore di London One Radio, la radio degli italiani a Londra. La vita per noi qua, che ormai siamo da anni, abbiamo un lavoro, paghiamo le tasse, le cose non cambiano drasticamente, anche perché poi ci sarà un margine di 2 anni, 3 anni circa per l'articolo 50 di riassestamento. Il problema è purtroppo per quelli che vorranno venire, non sarà più facile venire. Ancora, ok, siamo la Gran Bretagna è uscita dall'Europa, ancora però non si sa bene come tutti i contratti dovranno essere regolati anche tra le altre nazioni, all'interno, come si aprirà per esempio un semplice cosa, per esempio come un conto corrente in banca. Quindi ci sono 2-3 anni di aspettative. In questi anni però sarà molto difficile, soprattutto per gli italiani, venire, perché dovranno dimostrare di avere un reddito di lavoro, anzi addirittura si stava parlando di un reddito molto alto di lavoro, quindi non è detto avere il lavoro e basta. Prima era semplice rimanere qua a fare il cameriere, però ora no. Ora che cosa succede? Boh, non si sa. Quindi è stata una scelta a mio avviso sbagliata degli inglesi. È andata così e ora vediamo le conseguenze che porta. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.